I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La settimana scorsa il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di correzioni al nuovo codice degli appalti che era stato approvato dopo gli scandali di Expo e Mafia Capitale più di un anno fa ed era entrato in vigore proprio nell'aprile del 2016. Il codice degli appalti è un testo che ha rivoluzionato il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L'obiettivo era quello di portare più trasparenza, più rigore in un ambito troppo spesso travolto da scandali, episodi di corruzione e malaffare. Non a caso uno dei punti di forza del codice è rappresentato proprio dal potenziamento del ruolo dell'ANAC, l'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Il punto è che ora, con le correzioni, un po' a sorpresa, tra le modifiche approvate dal governo ne è spuntata una che ridimensiona i poteri dell'autorità anticorruzione. Una manina avrebbe cancellato il comma di un articolo del codice che nei casi di macroscopica irregolarità negli appalti attribuiva all'ANAC la facoltà di agire senza dover attendere l'intervento di un giudice, cosa che in genere richiede tempi più lunghi. Che cosa sia successo e perché questa norma sia stata cancellata non è ancora chiarissimo. Richieste di modifiche su questo punto non erano giunte dal Parlamento e ciò infittisce anche il giallo della cancellazione della norma. Di sicuro si tratta di un brutto segnale al quale va posto rimedio subito, perché il tema della legalità, della regolarità degli appalti appare sempre più decisivo per un governo che dice di essere davvero impegnato nel contrasto alla corruzione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alberto Orioli. Ci sono due dati congiunturali oggi che fanno ben pensare per la crescita economica dell'Italia e dell'Europa, ma non sono solo rose, c'è anche qualche spina. L'industria italiana ha recuperato a febbraio 2017 parte delle perdite del mese precedente e anche gli ordinativi sono in aumento. Ciò significa che rispetto all'anno scorso il fatturato è salito del 2% e gli ordinativi del 7,8%. Il dato è condizionato però da un'importante commessa acquisita nel settore della cantieristica e non è generalizzato per tutti i settori. Vanno bene i prodotti petroliferi raffinati, la metallurgia, la fabbricazione di prodotti in metallo, quella dai mezzi di trasporto e anche i prodotti chimici, e vanno bene anche l'industria tessile e degli accessori. Proprio nei giorni scorsi però il Centro Studi Confindustria ha annunciato che la ripresa resta altalenante, condizionata da fattori che potrebbero anche regredire, come ad esempio l'impatto degli incentivi sugli acquisti di macchinari high-tech. E la ripresa è fortemente legata peraltro a rischi della forte variabilità della politica. Anche in Europa pesa la stessa variabile politica e lo dice l'indice PMI elaborato sulla base degli acquisti decisi dai manager delle grandi aziende europee. L'indice PMI appunto della manifattura è salito del 56,8 ad aprile rispetto al 56,2 di marzo e quello relativo ai servizi è salito al 56,2 rispetto al 56 di marzo. Entrambi gli indici flash sono posizionati ai massimi da 72 mesi. Da molto tempo poi non si vedeva neppure una pressione così forte sui prezzi, cosa che farebbe pensare a un rialzo imminente dell'inflazione anche prima del previsto in Europa. Il dato curioso è che la miglior performance è legata alla Francia, che però, come sottolineano gli analisti, è anche quella a cui è legato il maggior margine di incertezza sul futuro. Tutto dipenderà da chi vincerà le elezioni e tutta l'Europa è lì che aspetta con il fiato sospeso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.